Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sarebbe morto il leader del califfato Abu Bakr al-Baghdadi e l'ISIS starebbe scegliendo il successore. Scontro tra jihadisti a ovest di Mosul. Con l'Europa film già visto, vinceremo la partita, dice Renzi. Oggi i dati sulla produzione industriale che riparte in maggio. Vaccini, il decreto approda in aula al Senato, saranno 10 quelli obbligatori, 4 i consigliati, diminuiscono le sanzioni. Incendi verso la normalità, la situazione a Messina, ma centinaia di ettari sono andati in fumo, decine di focolai a Roma e nel Lazio. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e siamo anche in diretta video sulla pagina Facebook di Radio 24 e sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. In apertura dunque andiamo in Iraq, da dove viene nuovamente diffusa la notizia che Abu Bakr al-Baghdadi sarebbe morto, il leader del califfato, ma questa volta sembrano esserci un po' più di solidità in questa informazione. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, buongiorno, sì, perché questa volta la conferma arriva anche dal campo. Ora infatti sono direttamente fonti vicine allo Stato Islamico ad ammettere che il fondatore del califfato effettivamente sarebbe stato ucciso e presto sostituito. In realtà già a metà giugno era stata la Russia ad annunciare la morte in un raid di Abu Bakr al-Baghdadi, l'uomo che 3 anni fa dalla moschea di Mosul si autoproclamò leader indiscusso dell'ISIS. Notizia che all'epoca non trovò ulteriori conferme, ma che ora invece, ora che è stato ridotto in macerie proprio quel pulpito e liberata la stessa città simbolo in Iraq, ora è lo stesso Stato Islamico a confermare l'uccisione del califfato. Lo riferiscono delle fonti alla TV irachena Alla Sumaria, citando un breve documento di Daesh. Una missione preceduta dalla revoca del divieto a parlare in pubblico della morte di al-Baghdadi, e a breve la stessa organizzazione, stando sempre a queste indiscrezioni, dovrebbe annunciare il nuovo califfo. Di sicuro la riconquista di Mosul, avvenuta secondo Amnesty International anche con un uso eccessivo di armi contro i civili, e ora la conferma della morte di al-Baghdadi rappresentano un duro colpo per i jihadisti che ancora resistono a Raqqa, e in realtà scontri si registrano tuttora anche a Mosul. Ma in questa situazione di difficoltà i jihadisti potrebbero anche tentare un colpo di coda, Simone. E grazie dunque alla nostra Raffaella Calandra, e più avanti torneremo in Iraq, ci collegheremo con il capo missione di Medici Senza Frontiere in Iraq, che è un italiano che si trova ancora sul campo, per farci raccontare la situazione, com'è e com'è la situazione a Mosul, che loro tra l'altro hanno appena lasciato. Veniamo alla giornata politica che si compone soprattutto e ancora una volta del rapporto, per così dire, dialettico tra Matteo Renzi e l'Europa sul tema del deficit. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, lo scontro con l'Unione Europea è un film già visto per Matteo Renzi, precisamente 3 anni fa, dice il segretario PD, quando abbiamo fatto la battaglia per la flessibilità. L'Europa all'inizio diceva non esiste, invece nel giro di 6 mesi ce la siamo presa, 20 miliardi, è stato un successo politico. La proposta di tornare a Maastricht sarà ripresa e la vinceremo. Per il segretario PD i vantaggi sono evidenti, una riduzione di almeno 30 miliardi di tasse da decidere in modo intelligente e selettivo, ma la proposta di Renzi incontra il no dell'Europa, il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem la critica duramente e la considera fuori dalle regole. La proposta di Renzi invece raccoglie il plauso di Confindustria, il presidente Vincenzo Boccia giudica condivisibile tenere per 5 anni il deficit al 2,9%. E anche sui migranti Renzi insiste, aiutiamoli a casa loro, è una frase di buon senso, dobbiamo salvare vite umane ma non possiamo pensare che vengano tutti da noi. Simone. Grazie dunque anche ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. E a proposito di migranti, parla il ministro greco per le migrazioni Ioannis Mouzalas. Le richieste dell'Italia all'Europa sono giuste, dice. Un problema europeo ed internazionale non può avere una soluzione nazionale. La solidarietà europea non è una questione sentimentale o etica, è un obbligo legale, dice Mouzalas. Sono d'accordo con quello che ha detto il ministro Minniti a Tallinn. Non può essere che il salvataggio sia internazionale, ma l'accoglienza nazionale. Abbiamo parlato di economia e dello scontro con l'Europa sulla politica economica. Ci sono anche i dati di oggi che riguardano la produzione industriale e che sono dei dati positivi. La produzione industriale rialza la testa dopo il calo di aprile e a maggio sale più delle attese degli analisti. Secondo l'Istat, l'indice della produzione industriale ha infatti segnato una crescita dello 0,7% su aprile. Rispetto a un anno fa, la produzione industriale è aumentata del 2,8%. Meglio delle previsioni, twitta il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Impegno, aggiunge, perché crescita dia più lavoro e meno diseguaglianze. La produzione industriale ha registrato un buon andamento anche nel trimestre marzo-maggio. La crescita, secondo l'Istat, è stata infatti dell'1,7%. A maggio l'incremento più alto della produzione industriale è stato quello del comparto dei beni strumentali, cresciuti del 2,3%, mentre i beni di consumo sono aumentati dello 0,2%. Su base annua si registrano variazioni positive in tutti i comparti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dopo tante polemiche e una serie di modifiche, arriva finalmente in aula a Palazzo Madama il decreto vaccini. Scendono da 12 a 10 le somministrazioni obbligatorie, si riducono le sanzioni e scompare il riferimento alla sospensione della patria potestà in caso di inadempienza. Queste le principali novità del provvedimento approdato nell'aula del Senato dopo il via libera della Commissione Sanità. I vaccini obbligatori sono esavalente, e cioè antipolio, difterite, tetano, epatite B per tosse, emofilo di tipo B, e quadrivalente, morbillo, parotite, rosolia e varicella. Altri 4, antimeningococco B e C, antipneumococco e antirotavirus, vengono attivamente consigliati dalle ASL con chiamata diretta alle famiglie. E poi, come si diceva, multe più basse, fino ad un massimo di 3.500 euro e non più 7.500 per chi non vaccina, e non si rischia più di perdere la patria potestà, ma verrà attivata un'anagrafe vaccinale nazionale per monitorare e aggiornare la situazione anno per anno. Prevista infine la possibilità di vaccinarsi in farmacia e introdotto l'obbligo di vaccinazione anche per gli operatori sanitari, punto sul quale però atteso il via libera della Commissione Bilancio. Un provvedimento che il governo vuole portare a casa in tempi rapidi. Non è escluso il ricorso alla fiducia, che comunque è già stata autorizzata, e la maggioranza a sostegno del provvedimento c'è, nonostante le continue polemiche. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alle cronache dagli incendi. Più avanti poi andremo un po' più specificatamente nel territorio, andremo a sentire come vanno le cose in Sicilia, dove c'è stato un maxi incendio, a Messina e poi a Roma. Intanto vediamo di fare un quadro generale. È ancora emergenza dopo il record di ieri di interventi per gli aerei dello Stato, 391 dal 15 giugno, 44 appunto solo ieri. Situazione ancora critica a Trapani, Messina ed Enna. La Sicilia è una delle regioni criticata dalla Protezione Civile per la mancanza di un piano antincendi e di una flotta aerea regionale. Numerosi gli incendi che hanno messo in crisi diverse zone nel centro e sud Italia, dove si registrano oltre 40 gradi, e sul Vesuvio ci sono ancora le fiamme ormai da 7 giorni, forse di origine dolosa. Anche oggi richieste continue di intervento alla Protezione Civile. Francesca Maffei. Sono arrivate già 17 richieste di concorso aereo per la flotta di Stato. Il numero maggiore 4 dalla Campania, poi sono 3 le richieste da Sicilia e altrettante dalla Basilicata, 2 da Abruzzo e Calabria, oltre che 2 dalla Puglia e 1 dal Lazio. Nella giornata di oggi, per esempio, sono 23 i mezzi a disposizione, tra i quali 14 Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Incendi quadruplicati a Roma, 3 di vaste proporzioni si sono sviluppati in Abruzzo e nel Basso Molise, nel Vibonese, 50 ettari di bosco e 20 di macchia mediterranea sono andati in fumo. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Ancora la cronaca, il corpo di uno dei 3 dispersi il 1° luglio nel lago Mularge, nel centro della Sardegna, è stato rinvenuto dai sommozzatori. Ancora non si conosce l'identità, sono scomparsi, lo ricordiamo, mentre erano su una piccola barca in Vetroresina. 3 persone, un uomo di 50 anni, un altro di 41 e il figliastro di questo secondo, di questa seconda persona, tutti di Orroli. Le ricerche erano scattate subito, ma finora erano stati recuperati solamente degli effetti personali. Torniamo all'estero adesso, coinvolto un membro della famiglia Trump nel cosiddetto Russiagate. È confermato, il figlio di Donald Trump Jr., si è incontrato lo scorso anno durante la campagna elettorale con Natalia Vazhelinskaya, un'avvocatessa russa vicina al Cremlino, che aveva promesso informazioni imbarazzanti e negative su Hillary Clinton. Con il figlio di Trump c'erano il genero Jared Kushner e Paul Manafort, il capo della campagna. Sembra che poi non se ne sia fatto nulla, ma è la prima volta che emerge un contatto diretto fra un membro della famiglia Trump e l'operazione russa per danneggiare la campagna di Hillary. E i Trump sapevano da una email inviata da un mediatore per organizzare l'incontro che i russi avevano appunto informazioni riservate. Una tessera in più nel mosaico che il procuratore speciale Mueller sta mettendo insieme per decidere se incriminare o meno il presidente americano per ostruzione della giustizia. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E dagli Stati Uniti arriverà presto il nuovo ambasciatore in Italia. Sentiamo chi è. È un finanziere dell'Illinois che dal 1966 vive a Manhattan, a New York, il prossimo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Si chiama Lewis M. Eisenberg, ha 75 anni ed è amico personale del presidente Trump, che lo ha designato. Di religione ebraica, ha cominciato a lavorare a Wall Street subito dopo la laurea alla Cornell University a Ithaca. Cofondatore e managing partner di Iron Hill Investments, che ha base a New York, è stato 23 anni in Goldman Sachs. Poi ha svolto attività in proprio come consulente finanziario, gestore di fondi e ha ricoperto anche incarichi pubblici. Per 6 anni è stato presidente della Port Authority di New York e del New Jersey, agenzia che sovrintende alle infrastrutture dei trasporti dei due stati e che aveva costruito le Torri Gemelle distrutte nell'attacco dell'11 settembre 2001. La nomina di Eisenberg, a cui Trump chiese aiuto nella raccolta di fondi per la sua campagna elettorale, deve essere ora ratificata dal Senato americano. Prenderà il posto di John Phillips, un imprenditore di Filadelfia con i nonni italiani, che era stato designato da Barack Obama. Adriana Fracchi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'Italia non ha presentato offerte per la continuità territoriale DAI per la Sardegna, in particolare nei collegamenti su Cagliari. Plichi con le offerte sono stati aperti questa mattina. Secondo fonti vicine alla compagnia, le condizioni del bando, riferiscono le agenzie, erano economicamente insostenibili. Meridiana si è candidata per le tratte Olbia-Roma e Olbia-Milano. Blue Air si propone per le rotte tra Alghero-Fiumicino e Alghero Linate. Oggi la relazione annuale dell'autorità per i controlli sulle telecomunicazioni. Sentiamo. Dopo 10 anni di contrazione, in Italia torna a crescere il settore delle telecomunicazioni, i cui ricavi nel 2016 sono aumentati dell'1,5%. A trainare la ripresa sono in particolare i servizi dati, i cui ricavi per la prima volta hanno superato quelli dei servizi voce. A rilevarlo è l'Agcom nella sua relazione annuale al Parlamento. Nonostante l'aumento degli italiani che navigano in rete, arrivati al 60%, nella classifica europea sull'utilizzo di internet il nostro paese si piazza al penultimo posto. A finire sotto la lente dell'autorità è anche il fenomeno delle fake news. Secondo il presidente dell'Agcom, Cardani, per contrastare la diffusione in rete di notizie false non basta l'autoregolamentazione promessa dai colossi del web, serve un intervento normativo. Per quanto riguarda invece il settore televisivo, la relazione evidenzia un aumento dei ricavi all'interno però di un mercato molto concentrato, mentre i segnali di maggiore sofferenza arrivano dalla stampa, un settore alle prese con una crisi strutturale i cui ricavi nel 2016 sono calati del 6,6%. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Oh, un ascoltatore ci chiede, visto che ne abbiamo parlato prima della fiducia in arrivo sul decreto vaccini, ci chiede qualche informazione a proposito del decreto che riguarda invece le banche venete. Quello che sappiamo è che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato la fiducia sul decreto e la fiducia appunto dovrebbe essere votata la settimana prossima. Ieri lo sfregio alla memoria di Giovanni Falcone, la statua deturpata, la foto incendiata. A questo è dedicata l'analisi di oggi di Daniele Biacchessi. C'è qualcosa di preoccupante nei due atti vandalici che in Sicilia hanno deturpato l'immagine di Giovanni Falcone, assassinato dalla mafia insieme alla moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Capaci il 23 maggio 1992. Nella scuola dello Zen di Palermo alla statua è stata staccata la testa e un pezzo del busto usati come ariete contro il muro dell'istituto scolastico. E sempre a Palermo ignoti hanno bruciato un cartellone con un'immagine di Falcone posizionato davanti ai cancelli della scuola De Gasperi, che faceva parte di un gruppo di altri cartelloni che erano stati realizzati nei giorni scorsi dagli studenti della scuola di piazza Papa Giovanni Paolo II. Dietro a queste azioni c'è l'oltraggio ad un magistrato coraggioso che aveva affrontato le cosche a viso aperto, a testa alta. C'è l'avvertimento per quanti ancora credono ad un paese più onesto che con le mafie intende non convivere. vivere, ma gli atti vandalici conservano anche un messaggio neanche poi tanto velato a pochi giorni dall'anniversario della morte di Paolo Borsellino, che insieme a Giovanni Falcone aveva alzato il tiro contro Cosa Nostra. Il messaggio della mafia è semplice, ma come sempre terribile. A distanza di 25 anni dagli attentati di Capaci e Via D'Amelio siamo ancora vivi. Ora serve un atto di coraggio politico, dissolvere le divisioni, approvare in via definitiva il codice antimafia, perché una bocciatura sarebbe un regalo ai criminali. Così dunque Daniele Biacchessi nel suo commento, analisi del martedì. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi, ovviamente, se riusciremo a collegarci, dovremo riuscire a farlo. La nostra prima tappa non sarà in realtà nel nostro viaggio consueto in giro per l'Italia, perché la prima tappa sarà in Iraq. In Iraq ci andremo a collegare col capo missione di Medici Senza Frontiere, che è un italiano, in questa giornata nella quale, come vi abbiamo detto in apertura, sembra confermata la morte del capo del califfato Abu Bakr al-Baghdadi, dove Mosul è ormai sostanzialmente liberata, però la crisi umanitaria c'è ancora ed è forte. Il traffico a tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, e siamo sempre in diretta video anche sulla nostra pagina Facebook, così come sulla pagina Facebook di Radio 24. Se volete potete anche scriverci e potete commentare anche là. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della morte del leader del califfato Abu Bakr al-Baghdadi, almeno queste sono le ultime notizie che stanno arrivando, sarebbero arrivate conferme anche, come vi abbiamo raccontato, dagli stessi uomini dell'ISIS, mentre sarebbe partita una vera e propria battaglia tra gli uomini dell'ISIS. Poi ci siamo occupati ancora una volta della battaglia sul deficit tra Renzi e l'Europa e dei dati sulla produzione industriale che sono arrivati oggi e sono positivi, di vaccini, perché oggi il decreto approda in aula al Senato, e poi di incendi sui quali torneremo tra poco. Prima ancora di collegarci con l'Iraq, appunto, ammesso, come si diceva, che riusciamo a prendere la linea, perché evidentemente non è facile nemmeno quello, ci occupiamo di una storia che riguarda Roma. Allora, come sapete, noi spesso ci torniamo su Roma, e lo voglio dire subito agli ascoltatori che sono dei fedelissimi e degli appassionati del Movimento 5 Stelle, di Virginia Raggi: non è che ci torniamo per dare addosso ai 5 Stelle, ma semplicemente perché è una città che spesso si presenta piena di paradossi. Le vicende dell'Atac le abbiamo raccontate, che sono figlie di una mala gestione durata degli anni. Oggi c'è una bella storia, una storia, se vogliamo, rappresentativa anche forse di un pezzo del paese, che troviamo dalle pagine locali di Repubblica e da una denuncia arrivata dall'Ordine degli Architetti di Roma. Abbiamo in linea il presidente Alessandro Ridolfi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, l'ultimo condono edilizio in Italia è, se non vado errato, del 2003, e ogni città ha al suo interno un ufficio condoni che deve gestire le pratiche. L'ufficio condoni di Roma ha 190.000 pratiche arretrate, e lo ricordiamo, l'ultimo condono è stato del 2003, con alcune che si accumulano là da addirittura 30 anni. E vi è arrivata adesso la comunicazione che gli uffici sono aperti da che ora a che ora, Ridolfi? Dalle 8 alle 11. Dalle 8 alle 11 per i mesi di luglio e di agosto, sì. Con 190.000 pratiche da smaltire. E quindi, ecco, diciamo, abbiamo avuto, diciamo, una forte, diciamo, protesta dei nostri colleghi, ma tanti, non solo architetti, ingegneri, che ovviamente frequentano per motivi di lavoro gli uffici del condono, perché in una situazione così congestionata anche la semplice riduzione dell'orario di apertura al pubblico ha creato numerosi danni. Una situazione in cui bisognerebbe fare esattamente l'opposto, e quindi mettere risorse aggiuntive, disponibilità, aumentare proprio la spinta più che ridurla, per cercare di evadere il prima possibile questo, diciamo, questa situazione. Pensate che 190.000 pratiche, più o meno i dati significhi che ci dicono che potrebbero essere che vengono lavorate ogni anno circa 10.000, non di più, pratiche, vengono evase 10.000 pratiche, quindi ci vorranno altri 9 anni per eliminare un problema. Tra l'altro, come sapete, no, noi anche come ordine professionale ovviamente sui temi di condono non è che siamo molto favorevoli, però insomma sono stati fatti e adesso è importante chiudere, perché significa comunque portare finalmente chiudere anche cambiate proprio il nome, chiudere l'ufficio, perché noi assolutamente siamo contrari ovviamente al tema dei condoni. Ma quanta gente ci lavora, Ridolfi? Lei lo sa quanta gente ci lavora in questo ufficio condono? Allora, dunque, i dati esatti noi non li conosciamo. Il problema, parlo di Roma, è che comunque questa situazione era stata, diciamo, come dire, dato un lavoro a una società esterna che doveva sbrigare negli anni questi lavori, quindi con degli obiettivi che non ha mai raggiunto, e comunque per difficoltà, per capacità che sono, diciamo, sono emerse. Però sostanzialmente la verità è che, no, che poi non si è voluto mai affrontare il tema, e qui veniamo anche, diciamo, alle soluzioni, perché come dice lei, noi come istituzione facciamo quello che ci chiedono i nostri iscritti, ma ci mettiamo anche in aiuto e a sostegno dell'amministrazione per risolvere i problemi. Abbiamo proposto, per esempio, ci sono alcune tipologie di condoni un po' più semplici che non riguardano, diciamo, aumenti di volumi o di superfici, quindi degli articoli, parlo della 4785, ma degli altri condoni che sono più semplici, tra virgolette, che con l'autocertificazione dei professionisti potrebbero essere sbrigati e quindi potrebbero, diciamo, aiutare in qualche maniera a ridurre la possibilità di evadere questo lavoro. Oppure l'utilizzazione degli stagisti, esistono anche per legge la possibilità di ricorrere, no, a dei professionisti magari anche giovani che possono comunque fare delle attività, diciamo, professionali anche di apprendimento, che possono diventare un aiuto a risolvere questo cancro. Qua qualche ascoltatore scrive, Ridolfi, se evadi tutte le pratiche c'è il rischio di essere licenziati, e quindi hanno tutto l'interesse a mantenere per i prossimi 19 anni il ritmo di 10.000 pratiche all'anno, no? Esattamente, perché poi io non credo sia così, però c'è viene il sospetto che poi ci siano interessi a mantenere, diciamo, invece la struttura più lungo possibile. Invece io credo che questa pagina dei condoni, che non è la pagina, diciamo, migliore del nostro paese, debba, diciamo, in qualche maniera trovare una conclusione, anche perché succede che molte oggi anche delle attività nuove sono comunque collegate alla legittimazione, alla chiusura di pratiche vecchie, quindi se non si chiudono quelle non si può neanche, diciamo, oggi, tanto per essere chiaro, per fare degli interventi anche sugli edifici esistenti tu devi avere una legittimazione del preesistente che magari ha un condono, e quindi se te non lo chiudi non puoi neanche, diciamo, allora, quindi Ridolfi, mi aiuti lei, perché hanno già iniziato, e io lo sapevo, perché ogni volta che parliamo di qualche ritardo di Roma inizia la parte politica di quelli che dicono è uno schifo, ve la state prendendo con la Raggi, lasciatela lavorare. No, io devo ricordare agli ascoltatori che Ignazio Marino l'abbiamo massacrato da questi microfoni, va bene, quindi non smettiamola con questa storia. Oggi sono un po' nervosetto, quindi mi colgono male, mi prendono male. Sì, prego, dica la parola, così mi aiuta lei direttamente. Direttamente. Questo tema, tanto per essere chiaro, coinvolge perlomeno 3 amministrazioni, non è un tema di oggi, sono anni che noi continuiamo, quindi oggi tocca alla Raggi, poi toccava a Marino, poi toccava a Alemanno, quindi è un problema che noi purtroppo continuiamo ripetutamente a manifestare con forza. Però non siamo ascoltati dalle amministrazioni, le ripeto, questa ultima mi dispiace, quella della Raggi, ma non siamo stati ascoltati a Marino, non siamo stati ascoltati perché, le ripeto, l'ufficio condono, ha detto lei, è aperto da moltissimi anni, e quindi non è un tema contro, è proprio un preciso compito che credo che un ordine come il nostro debba fare, di denunciare delle attività che in qualche maniera alimentano, comunque contribuiscono a rendere sempre più difficile sia il nostro lavoro, ma che stanno limitando anche l'economia, perché dietro questo c'è tutta un'economia di una città basata sulle trasformazioni urbane, sulle costruzioni, certo, che è bloccata per questi procedimenti, sì, come l'altro appello che noi abbiamo fatto. No, aspetti, Ridolfi, la devo fermare, non la faccio continuare sull'appello, anche perché passiamo ad altro argomento. Ricordo il punto è che è arrivata una notizia che dal 3 luglio all'11 settembre l'apertura della sessione al pubblico, del salone al pubblico, avverrà dalle ore 8 alle ore 11 fino all'11 settembre, ferie lunghe dunque. Restiamo su Roma, abbiamo parlato dei problemi di Roma dal punto di vista urbanistico, ma in questo momento la città e la regione Lazio in genere ne stanno affrontando altri, sono quelli che riguardano gli incendi. Carmelo Tulumello, direttore dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile del Lazio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Ci dà un quadro della situazione? La situazione è alquanto critica e problematica. Solo per darvi alcuni dati che rendono l'idea della dimensione del problema, dal 1 giugno al 7 luglio di quest'anno siamo a 915 incendi nella sola provincia di Roma a fronte di 261 dello scorso anno. Sul totale delle province laziali abbiamo 1439 incendi a fronte di 418. C'è un picco, un'impennata che in alcuni casi in provincia di Rieti raggiunge l'800%, anche se in valore assoluto il numero è sicuramente più contenuto, più basso, della certo, provincia più contenuto, ovvio, ovvio. Il tema vero, sì, è un altro, che si tratta di incendi che sono pressoché esclusivamente incendi cosiddetti di interfaccia, cioè che interessano insediamenti abitativi che sono assolutamente, come dire, pericolosi per la vicinanza ad abitazioni e insediamenti civili. Certo. Avete già un'idea di quanti possano essere dolosi di questi incendi? Guardi, un dato preciso in questo ovvio, senso... Ovvio che no. Infatti le sto chiedendo grossolanamente se vi siete fatti un'idea. Guardi, partiamo da un presupposto. L'autocombustione è, come dire, è una circostanza, ancorché possibile, sicuramente improbabile. Le forze dell'ordine hanno già tratto in arresto in alcuni casi nell'ultimo mese delle persone che avevano dolosamente appiccato il fuoco. C'è, diciamo, un'equivalenza sicuramente tra incendi di matrice dolosa ed incendi di matrice colposa, cioè dovuti ad incuria, a distrazione, a superficialità, a negligenza e a inosservanza anche, come dire, delle ordinanze che i sindaci fanno. Quindi un 50-50, direbbe lei, sempre grossolanamente, Tulumello. Sì, molto grossolanamente mi attesterei su questa percentuale. Tulumello, ascolti, che cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? È solo la siccità o c'è qualcosa di diverso? Ma guardi, come le dicevo, è fortissimo l'incremento in ambito urbano, la città di Roma in particolar modo è sotto assedio. Noi quotidianamente interveniamo in ambito urbano e fortunatamente abbiamo avuto, come dire, nel mese di maggio il sentore che qualcosa potesse non andare e abbiamo potenziato la nostra flotta aerea regionale da 7 a 10 elicotteri, prendendo un altro bimotore, perché in ambito urbano possono volare soltanto i bimotori. E con due elicotteri bimotori stiamo contenendo i danni nell'ambito della città. Ci sono diversi fattori, sicuramente il fattore climatico, sì, penso che è poi un pericolosissimo alleato del fuoco, ma c'è anche, come dire, parecchio materiale combustibile che è presente. Più del solito, evidentemente. Evidentemente sì, i dati testimoniano questo, insomma. Intende rifiuti sostanzialmente? Non necessariamente. Anche, come dire, erba non tagliata, una pulizia che non viene effettuata nei tempi e nei modi probabilmente in cui deve essere effettuata, la presenza sicuramente di rifiuti che contribuiscono ad alimentare il fuoco e a renderlo, come dire, ancor più vigoroso. Certo, la ringrazio, grazie a Carmelo Tulumello, direttore dell'Agenzia Regionale Protezione Civile del Lazio. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e andremo anche in Sicilia, perché anche là la situazione è critica e poi vedremo se riusciremo a collegarci con l'Iraq, ci stiamo provando e ovviamente i collegamenti non sono immediati come per parlare appunto con Tulumello, con Ridolfi o con l'assessore siciliano con il quale parleremo tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: sarebbe morto il leader del califfato Abu Bakr al-Baghdadi e l'ISIS starebbe scegliendo il successore, scontro tra jihadisti a ovest di Mosul. Con l'Europa film già visto, vinceremo la partita, dice Renzi, oggi dati sulla produzione industriale che riparte in maggio. Vaccini, oggi il decreto approda in aula al Senato, saranno 10 quelli obbligatori, 4 i consigliati, diminuiscono le sanzioni. Incendi, verso la normalità la situazione a Messina, ma centinaia di ettari sono andati in fumo, decine di focolai, come avete sentito a Roma e nel Lazio. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, sempre 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp e sempre in diretta anche video sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook di Radio 24. Maurizio Croce, assessore regionale siciliano all'ambiente e al territorio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. È stata una notte, sono ore oggettivamente difficili, soprattutto a Messina e nell'Ennese, no? Per gli incendi. Sì, sì, sono state giornate difficili in realtà, è da qualche giorno che subiamo un po' di incendi lungo il patrimonio boschivo della nostra regione. In particolare a Messina mi sembra che sia stata la situazione più critica nelle ultime ore. Ieri, sì, tra ieri e oggi, diciamo, le situazioni più critiche l'abbiamo avuto quella a Messina, indubbiamente la più critica in assoluto, ma anche quella di Traenna e Calascibetta, che poi ha in qualche modo intaccato l'autostrada, la Palermo-Catania, la 18, è stato anche quello un incendio abbastanza importante. Sono andati in fumo, se ho letto bene, non ho capito se nella zona di Messina o tra Messina e in quella fascia tra Enna e Calascibetta sono andati in fumo 250 ettari di bosco? Sì, complessivi. I 250 ettari sono complessivi, sono tra il messinese e l'ennese. E che cosa rappresentano rispetto al patrimonio boschivo della regione questi 250 ettari, assessore? Sono una parte, diciamo, importante. Se li sommiamo agli ettari che nell'ultima settimana, di fatto, perché Messina ha già avuto altri incendi avantieri, poi ha avuto in provincia incendi anche una settimana fa a Taormina importanti, poi c'è stato il Trapanese, poi c'è stato il Ragusano anche a Montegulfi, cioè adesso la quantità di ettari complessiva dall'inizio, diciamo, degli incendi ad oggi è diventata una quantità che il nostro patrimonio boschivo è stato danneggiato in maniera imponente. La ringrazio, grazie a Maurizio Croce, assessore all'ambiente e al territorio della Regione Sicilia. Siamo finalmente riusciti a connetterci con Vittorio Pizzi, che è il capo missione di Medici Senza Frontiere in Iraq. Buongiorno, benvenuto Pizzi. Buongiorno. Dove si trova adesso lei? Mi sto muovendo lì fuori di Mosul, dove abbiamo il nostro team che nelle ultime 3 settimane ha aperto una struttura nella parte ovest della città, dove si è concentrata l'ultima fase del conflitto. Dall'apertura ad oggi abbiamo ricevuto più di 400 pazienti, di cui 180 erano feriti di guerra, e la metà di questi feriti erano donne e bambini. La situazione è molto grave, diciamo che questi numeri, per quanto importanti, a noi appaiono relativamente bassi rispetto al numero di persone che temiamo fossero intrappolate nella città vecchia nelle ultime settimane. Questo viene anche dalle testimonianze di molti dei nostri pazienti che, appunto, prima di riuscire a evacuare, a uscire dalla città vecchia, hanno dovuto seppellire dei parenti e dei familiari. Quindi la situazione resta molto grave e lascia ovviamente dei traumi a prescindere dalla durata e dalle fasi del conflitto nella popolazione. Opizzi, da quel che vi risulta, ovviamente per quel che ne sapete, sappiamo che ieri a Mosul si parlava di ancora delle sacche di resistenza del cosiddetto califfato di Daesh, da quel che vi risulta si combatte ancora in qualche zona della città oppure la situazione si è, per così dire, le battaglie sono terminate? Ma diciamo che appunto, come dice lei, appunto, noi siamo pronti a rispondere a feriti che arrivano, in buona parte ovviamente nelle ultime settimane erano feriti di guerra, ma anche altre persone semplicemente che, vista la distruzione nella città dovuta a esplosioni, bombardamenti e quant'altro, rimangono intrappolati nelle proprie case, il numero di mine che sono state piazzate. Quindi, come dicevo prima, a prescindere diciamo dalla fase o dal fatto che il conflitto sia terminato o meno, ahimè, appunto, noi abbiamo continuato a ricevere pazienti fino agli ultimi giorni. Dall'altro lato c'è anche da notare che appunto il conflitto ha lasciato le strutture sanitarie che erano preesistenti a Mosul, sono state o gravemente danneggiate o completamente distrutte. Quindi anche una volta che il conflitto e la battaglia è terminata, la popolazione continua a dover far fronte a dei bisogni di accesso a strutture sanitarie e anche altri ovviamente bisogni primari, e questo purtroppo durerà anche molti mesi. In qualche modo Pizzi, l'emergenza non è tanto non solo durante la battaglia in corso, ma soprattutto dopo, mi sembra di capire. Esattamente, come dicevamo prima, i feriti di guerra ovviamente ricevono trattamenti, ma la chirurgia di guerra non è che la prima fase in un lungo percorso di riabilitazione, e appunto il conflitto è durato per dei mesi. Medici Senza Frontiere, adesso abbiamo aperto questa struttura nell'ovest, ma negli ultimi mesi abbiamo intervenuto sia nella parte est sia attorno, nelle periferie della città, quindi tutti i feriti che abbiamo trattato come chirurgia di guerra hanno e avranno bisogno appunto di cure post-operative e di riabilitazione, e questo appunto durerà ancora per mesi. Dentro la città immagino che ci siano ancora dei feriti che non riescono, molti feriti che non riescono ad accedere a strutture sanitarie. Ricordiamo che Mosul è una città grande, o almeno era una città densamente popolata prima dell'avvento del califfato e delle battaglie, no? Esattamente. Negli ultimi mesi ci sono persone appunto che sono rimaste intrappolate, altre invece che sono state evacuate in campi rifugiati. Ci sono parti della città appunto dove la popolazione ha gradualmente cominciato a ritornare, e appunto diciamo che per esempio abbiamo avuto più di 40 parti nella stessa struttura, quindi da un lato ci sono bisogni appunto più di emergenza, più di medicina di guerra, ma dall'altro lato c'è semplicemente una mancanza di accesso a strutture sanitarie, quindi anche di cure base, che di fatto, se non colmata questa mancanza, genera bisogni ancora più gravi per la popolazione. L'ultima domanda che le voglio fare, Pizzi, è un po' fuori, come dire, da quello di cui vi occupate quotidianamente, però dato che è sul territorio glielo chiedo. Abbiamo di questa mattina la notizia che a questo punto verrebbe da fonti dello stesso Daesh, secondo le quali il Abu Bakr al-Baghdadi sarebbe morto. Vi è arrivata questa notizia? Non vi è arrivata? Avete registrato qualche reazione dalle persone che collaborano con voi sul terreno? Guardi, come diceva lei, come Medici Senza Frontiere, come organizzazione umanitaria, tendiamo a focalizzarci sui bisogni della popolazione, e quindi tendiamo a non speculare su questioni di tipo politico e di questo genere. Il nostro team è veramente molto impegnato. Sì, per chiarire, Pizzi, no, non era una domanda politica, era per sapere se aveste avuto notizie oppure no, molto semplicemente, ecco, non era una richiesta di commento politico. Personalmente no, ma appunto perché sono stati impegnati col nostro team a svolgere le attività questa mattina, quindi non personalmente no. La ringrazio, grazie a Vittorio Pizzi di Medici Senza Frontiere per essere stato con noi, e ovviamente le auguriamo un buon lavoro a lei e a tutto il suo team e a tutti gli operatori umanitari che sono a Mosul, una città devastata dalla guerra e dalle battaglie. Traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.